Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo sempre in diretta appunto dall'Expo, dalla sede del Cibus e Italia, vicino ai padiglioni Mauritania, Russia, Palestina, per continuare a raccontare l'industria alimentare, anche per continuare a raccontare l'industria alimentare italiana e respirare, visto che da lì arrivano notizie positive, mentre dal resto della giornata le notizie sono difficilmente definibili come positive, anche se tanto so che tutta l'attenzione in questo momento è sulla Grecia, cosa succede in Grecia, quale possibilità ha di diventare effettivo, di avere una qualche efficacia questa nuova proposta greca. Dicevo, anche se oggi in realtà ci occuperemo anche del tasso di disoccupazione, qui la notizia non è né buona né cattiva, lo dico subito, il dato è quello che noi usiamo come unico dato di riferimento, mi riferisco all'Istat. La disoccupazione è fermo, il tasso nel mese di maggio al 12,4%, invariato anche rispetto al mese precedente. Nell'anno ci sono 59.000 persone in meno come disoccupati, meno 1,8%, questo nei 12 mesi però. C'è un lievissimo calo della disoccupazione giovanile a maggio, dal 41,6 al 41,5, stiamo alle briciole, alle quisquiglie, mentre sugli occupati ce ne sono, che vuol dire tutti quelli che non lavorano anche se non lo cercano, mentre i disoccupati misurano solo quelli che non hanno un lavoro tra quelli che lo cercano. Dicevo, sugli occupati c'è un aumento di 60.000 persone, tant'è che l'Istat commenta nella sua nota: le politiche del governo e in particolare il Jobs Act sembrano aver avuto effetto su aprile ma non su maggio. E quindi anche il ministro Poletti dice: i dati non sono stabilizzati ma i segnali sono positivi. Insomma, su questo forse c'è un po' di politica di mezzo, i segnali sono neutri, insomma, non è cambiato nulla e non c'è stata una diminuzione della disoccupazione, né va detta complessivamente dell'occupazione si è avuto un aumento significativo, cioè siamo ai livelli di aprile. La vera domanda a questo punto è se maggio è stato un mese di arresto oppure se tutto, che sarebbe più negativo e ben più preoccupante, se tutto l'effetto del Jobs Act si è già scaricato tra il 7 marzo, quando è entrato in vigore, e la fine di aprile. Anche di questo parleremo. Il numero per i vostri sms è come al solito 349-238-6666 e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Chiaramente di nuovo faremo l'aggiornamento sulla Grecia, lo faremo nell'ultima mezz'ora come abbiamo fatto anche ieri, per darvi le notizie più fresche, non per altro. Torneremo su un tema che ieri era emerso in questa prima puntata di Focus Economia in diretta dall'Expo al Cibus e Italia, e c'è la difficoltà di molti, anche ascoltatori, nell'accettare che l'industria alimentare, o meglio, che vi sia un'industria alimentare che possa garantire anche un'alta qualità dei suoi prodotti. Su questo, a mio avviso, molta retorica negli anni passati sul chilometro zero, sui prodotti di nicchia, sulle in qualche modo presidi del territorio, che andava benissimo, ma non può diventare un'ideologia. Non si può pensare che tutto ciò che è industriale nel mondo alimentare rappresenti vada a discapito della qualità, o che tutto ciò che sia di carattere agricolo sia per forza di cose di alta qualità. Non è così, ma ne parleremo. Adesso rapidamente per le altre notizie in breve, a partire dalla borsa. Oggi la seduta, sicuramente uno dice meno male, è diversa, non è una seduta di recupero, lo dico subito, tant'è che a parte Milano, che ieri aveva perso quasi 2 punti percentuali più delle altre borse, ancora Francoforte negativa di uno 0,40%, Parigi di uno 0,70%, Milano oggi sostanzialmente guadagna lo 0,22%, che tutto sommato va un po' a riallinearsi con le altre borse europee. 0,22%, non ci sono i cali fortissimi di ieri sul settore bancario, nel senso specifico che le banche oggi sembrano abbastanza alla finestra. La Pop Milano guadagna 2,16, recupera per meglio dire 2,16, Unicredit l'1,42, il Banco Popolare l'1,36%, Popolare Emilia Romagna più 1,14, Intesa San Paolo mezzo punto percentuale di rialzo. Il fronte opposto invece vede perdere ancora il Monte dei Paschi l'1,20%, e poi invece Ferragamo meno 2,60, Saipem meno 1,60, Prismi meno 1,50, Tod's meno 1,20, Enel Green Power meno 1, come Luxottica, Snam meno 0,80. Devo dire, molto interlocutore la seduta, l'impressione che tutti hanno ricevuto è che gli operatori, dopo il segnale e la scoppola di ieri, vogliono vedere se veramente Grecia e Unione Europea arriveranno a un accordo in extremis, in zona super Cesarini, oppure se si andrà verso un referendum, e a quel punto tutti si riposizioneranno. L'euro su dollaro è a quota 1,11, quindi 1,114, quindi assolutamente fermo rispetto alle variazioni di ieri. E allora rapidamente le altre notizie in breve. Dunque, vedo che alcuni mi chiedono: ma lei è d'accordo con Giannino, con Oscar immagino, Giannino, sulla visione del contagio della Grecia per l'Italia? Ma guardate, io e Oscar spesso non siamo d'accordo quasi su niente, ma non per questo non abbiamo il diritto di coesistere, però nel senso che lui ha un approccio molto più liberista, ma lasciamo stare questi dettagli. Allora, ieri abbiamo avuto, a mio avviso, un assaggio magari temporaneo di quello che potrebbe capire di fronte a mercati che dicono: ma come, non siete in grado, Greci da una parte e il resto dell'Europa dall'altra, di gestire una cosa come un debito minore di un paese che ne ha combinate più di Bertoldo, ma che obiettivamente non si può dare di questo la colpa a Tsipras e Varoufakis, che sono arrivati a gennaio, e dall'altra parte uno dei due contendenti, come ripeto ieri si faceva l'esempio di padri e figli, se hai un figlio immaturo che punta i piedi, qualcuno deve essere più maturo del tuo figlio, non per dargli ragione ma per andare avanti se l'obiettivo è più alto. Dopodiché invito oggi a leggere l'intervista sul Sole 24 Ore del Premier Matteo Renzi, l'intervista al direttore Roberto Napoletano, dice: siamo fuori dalla linea di fuoco, l'ombrello della BCE è un'economia che torna a crescere, a mio avviso più l'ombrello della BCE, ci mettono a riparo dai rischi di un fallimento greco. Allora, sicuramente la situazione è diversa dal 2010-2012, grazie a Mario Draghi, non grazie a Bruxelles, né grazie alla Germania, né grazie alla Grecia. Da qui a dire che un processo come quello di un'uscita della Grecia dall'euro possa mettere da processo del genere l'Italia sia completamente a riparo, io, è chiaro che non faccio il politico, non ho bisogno di consenso elettorale, tenderei a usare gesti scaramantici, a guidare con una mano sola o mani sul volante, come dice Milan, no, perché non ne sarei così convinto, perché il problema lì poi diventerebbe di carattere eminentemente politico. Quindi sono parzialmente d'accordo anche con Oscar Giannino, cioè dire troppo insistentemente, come fa anche il ministro Padoan, tanto noi non avremo problemi, ma neanche nel 2010 sembrava dovessimo avere problemi, eppure il gioco del domino, quale paese uscirà dopo la Grecia, è partito con Portogallo, Spagna e Italia, non lo so, non c'erano questi strumenti, non c'era lo scudo della BCE, è verissimo, e Mario Draghi ha fatto capire che insomma, se ti metti a speculare contro l'euro ti metti a speculare contro la BCE direttamente, questa è una grossissima sicurezza. Da lì a dire che il sentiero sarebbe tranquillo o l'Italia non verrebbe coinvolta, non penso, non lo so, soprattutto non lo so, mi rendo conto che a quel punto la variabile sarebbe più di carattere politico che non di carattere economico, perché poi chiedo: ma se allora dopo l'uscita della Grecia dall'euro dovessimo vedere un'affermazione ancora più forte di Podemos in Spagna e magari dei movimenti, primo su tutti la Lega, visto quello che ha dichiarato ieri Matteo Salvini proprio ai microfoni Radio 24, che se fosse per lui uscirebbe dall'euro già adesso, e invitando gli italiani a ritirare i soldi in banca, ecco, siamo sicuri che di fronte a movimenti come questi che aumentassero i loro voti, consenso, i mercati non prenderebbero veramente paura nonostante Draghi? Meglio non arrivare a questi livelli, insomma. Allora, il ministro Varoufakis oggi ha chiarito che non pagheranno la rata da 1 miliardo e 600 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. La borsa del Lussemburgo nel frattempo ha sospeso gli scambi di bond di obbligazioni di diverse società greche. Dal 1 luglio, quindi c'è da domani, la Grecia, se non pagherà entro stasera, non avrà più l'ombrello finanziario di protezione. Tecnicamente sarà solo in arretrato per il Fondo Monetario Internazionale, solo che a mezzanotte scade anche il programma di aiuti congiunto, quello Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, e quindi non avrà più un ombrello finanziario a proteggerla. Questo è il vero punto. L'Eurogruppo è stato fissato per le 19, discuterà la proposta di Tsipras, quindi la lettera inviata da Tsipras a Jean-Claude Juncker, a Mario Draghi, a François Hollande, a Angela Merkel e a Dijsselbloem. Poi ho visto che il ministro Padoan dice non è vero che non ci hanno considerato, però anche stavolta la lettera diciamo, non ha un indirizzo italiano, ce l'ha a Bruxelles e va bene, a Francoforte e va bene. E poi ce l'ha a Parigi e a Berlino. Sarà un caso. Saranno finiti i francobolli. Andremo poi avanti con la Grecia, ripeto, dopo le 18. Sì, ripeto, Piercarlo Padoan oggi a margine di un convegno alla Sapienza ha detto: il dibattito continua a tutti i livelli, il governo italiano è impegnato allo scopo di ottenere risultati, non visibilità mediatica. Però ci permettiamo di dire al Ministro che il problema non è la visibilità mediatica, non è che l'obiezione non era sull'assenza della photo opportunity di Renzi assieme a Merkel, Tsipras e Hollande, è proprio che quando Tsipras scrive la lettera con la proposta la manda a Francia, Germania, oltre che agli organismi europei, non la manda all'Italia. Fine. Allora, dicevamo dei dati sulla disoccupazione che si sono fermati, 12,4% nel mese di maggio come nel mese di aprile. Tra l'altro sono tornati a crescere anche gli inattivi, quindi le persone che non hanno più un lavoro e non lo cercano, più 36.000 persone, e questo su base annua sono diminuiti dello 0,9%. Il peso degli inattivi ha un ruolo determinante sul calo della disoccupazione dei giovani e delle donne. A questi dati sono dedicati, perché ce l'hai in maniera negativa, nel senso che se tu sei inattivo vuol dire che tu non stai cercando un lavoro, non entri neanche nella statistica della disoccupazione, sei un non occupato ma non sei un disoccupato, e tipicamente è il giovane che non sta nemmeno cercando lavoro perché non pensa di poterlo trovare, o la donna che non rientra nel mercato del lavoro perché preferisce restare a casa perché ritiene di non avere una prospettiva di lavoro interessante. A questo comunque sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi curati dal vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sul fronte del mercato del lavoro continuano ad arrivare dati non semplici da interpretare. Proviamo allora a fare un po' di chiarezza. Oggi l'Istat ha comunicato che a maggio il tasso di disoccupazione, che ricordiamolo indica il rapporto tra le persone che sono effettivamente in cerca di un'occupazione e la popolazione attiva, resta al 12,4% rispetto al mese di aprile. Se però guardiamo a quello che è accaduto nell'arco degli ultimi 12 mesi, il tasso di disoccupazione risulta leggermente in calo e i disoccupati sono in effetti diminuiti di circa 60.000 unità. Sempre a maggio però frena il numero dei nuovi occupati con una perdita di 63.000 posti di lavoro rispetto al mese di aprile. È un andamento che delude anche perché non appare in linea con i dati sulle attivazioni di nuovi contratti di lavoro forniti alcuni giorni fa dal Ministero del Lavoro. Si riduce anche, ma di poco, la disoccupazione giovanile, che resta intorno al 41,5%, e questo è un dato non incoraggiante, anche perché risente del fatto che in questo periodo sono aumentati i giovani inattivi, cioè quelli che non solo non hanno un lavoro ma sono anche così scoraggiati da non cercarne uno. 1 e quindi escono dalla categoria statistica dei disoccupati. Come si vede, qualche luce e molte ombre con l'emergenza occupazione che non è ancora alle spalle, a riprova del fatto che il Jobs Act da solo non potrà invertire la rotta del mercato del lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Potere del mezzo radiofonico, abbiamo trasformato la voce di Salvatore Padula in quella di Alberto Rioli, chiaramente la firma era del vice direttore del Sole 24 Ore Salvatore Padula. Prima di arrivare al tema dell'industria alimentare e poi il mercato del lavoro e poi la Grecia, l'accordo dell'Unione Europea, alcuni di voi lo fanno notare, sul roaming è interessante, riguarda soprattutto il consumatore, il cittadino consumatore. Da giugno 2017, dopo una maratona negoziale notturna, una volta tanto è servita in questo caso, c'è l'accordo per abolire il roaming. Cos'è il roaming? Sono i vari accordi tariffari, come molti di voi sanno, quando vai all'estero, quello che paghi in base al gestore che utilizzi. Un taglio dei costi arriverà già da fine dell'aprile del 2016, tutelata anche la net neutrality. Francesco Sacco, che è docente di strategia aziendale alla Bocconi di Milano, nonché componente del tavolo permanente per l'innovazione, ha così commentato al microfono della nostra Anna Marino. Oggi quando si va all'estero, non dico tanto per i costi delle telefonate che si sono molto abbassati, ma quanto per i costi della connessione, per chi è spesso all'estero i risparmi sono notevoli, parliamo non di un euro o due, ma di decine e decine di euro, in un arco più spalmato di tempo enorme. E per quanto riguarda il traffico su internet, l'Unione Europea ha chiesto appunto di proibire il blocco degli accessi, salvo perché per contrastare i cyberattacchi. Quindi è più sicura internet. È un fatto di democrazia, un fatto di inclusione. Non ci deve essere una internet a due velocità in cui la velocità dipende dal portafoglio. Dal punto di vista del cittadino, avere la certezza che i suoi dati verranno trattati come i dati di tutti gli altri. E adesso, come anticipato, parliamo di industria, parliamo di industria e qualità del settore alimentare. 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Chi ci scrive, siamo allo stand, al padiglione del Cibus, è Italia, non so come spiegare, verso la parte in fondo del Decumano, dove ingresso Rosario, padiglione della Mauritania, della Palestina, della Russia, non so, forse mi manca qualcos'altro. Comunque, lì dove vedete, non posso fare altri nomi perché faccio pubblicità. Industria alimentare. Parliamo di industria alimentare di qualità, perché già ieri da questi studi qui a Cibus e Italia, gli studi Radio 24 all'Expo, il presidente federalimentare Scordamaglia aveva ricordato come l'industria alimentare non sia in contrapposizione con il settore agroalimentare di qualità. Ricordavamo l'importanza di avere dei processi industriali nel mondo alimentare, proprio perché ti servono sia le dimensioni che l'approccio con la grande distribuzione organizzata e che la presenza in certi mercati. Devo dire che anche ieri, alla luce di questo ragionamento, sono arrivati molti messaggi che dicevano: ma come si fa a dire che l'industria alimentare può fare qualità se è industria fa industria? Questo è un cortocircuito che c'è spesso nel paese, nonostante sempre ieri il presidente federalimentare abbia ricordato come la nostra industria di qualità nell'alimentare riesca a creare molto più valore aggiunto a partire dalla materia prima di base rispetto a altre industrie agroalimentari che pure ci battono come volume di export e valori. Penso alla Germania: a parità di latte o maiale noi riusciamo a trasformarli in prodotti che hanno un valore aggiunto quadruplo, quintuplo, mentre la Germania non arriva a livelli Italia, arriva a meno della metà. Ciò nonostante, nel paese è ancora presente, lo vediamo anche noi, una grossa difficoltà a capire che si può fare alimentazione di qualità con processi e approcci di carattere industriale. E per raccogliere la provocazione degli ascoltatori di ieri, ma non solo di ieri, ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato Francesco, un collegamento è un'abitudine, qui in studio in realtà sotto questo caldo africano. Da un lato Francesco Mutti, che è l'amministratore delegato della Mutti, molti di voi immagino la conoscono, è una delle aziende leader nel settore delle conserve del pomodoro. Buonasera innanzitutto. Buonasera, grazie mille per l'invito. Grazie anche a Fabio Leonardi, amministratore delegato della Igor Gorgonzola. Buonasera anche a lei. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, voi dite, ma cosa c'entra? Barisone si è trasformato nel programma di Davide Paolini? No, perché da un lato la Mutti fattura 185 milioni di euro, se non ricordo male, dall'altro la Igor Gorgonzola ha un fatturato sostanzialmente che viaggia sui 200 milioni di euro, no, un po' meno, 150. 150 milioni di euro. Quindi da 150 siamo una fatta apposta, a 185 siamo in questo range. Tutto si può dire tranne che non siate industrie con queste cifre. Tra l'altro, proprio l'Igor Gorgonzola, se non ricordo male, ha circa 200 dipendenti. Sì, un po' di più, comunque siamo su. Ah, prima era per difetto, adesso certo. Prima per accesso, adesso per difetto. 200 dipendenti, che in Italia significa media impresa. Così come la Mutti ha circa 300 persone come dipendenti, che appunto significano media impresa. Allora, il tema è molto semplice secondo me. Mutti, a forza di retorica sul chilometro zero, che va benissimo mangiare il cibo vicino, a forza di retorica non ce l'abbiamo con Slow Food e Carlin Petrini, ci mancherebbe, ma di retorica sui presidi del territorio, sulle produzioni di nicchia, che è un'opera meritoria per salvare le produzioni piccole locali, così come abbiamo elogiato Oscar Farinetti, che queste piccole produzioni locali è riuscito a dare a loro una vetrina che si chiama Italy. Però un paese non riesce ad avere un export come quello che ha l'Italia, ripeto, ancora basso rispetto alla Germania e alla Francia, ma vicino, ci auguriamo, ai 30 miliardi di euro quest'anno, solo con le produzioni di nicchia e con le produzioni, diciamo, a chilometro zero. Anche perché se in Canada e in America spieghiamo chilometro zero, non vendiamo più un pezzo di parmigiano e di prosciutto crudo. Questo lo dico, quindi teniamocelo per noi come ragionamento, non raccontiamolo troppo all'estero, perché se iniziamo con la retorica del tu si mangia il cibo vicino a casa, noi non esportiamo più un grammo di niente. Però quello dove vorrei arrivare è far capire quanta ricerca, innovazione, ricerca sulle materie prime, ricerca anche di processo c'è nell'industria alimentare. Perché uno può dire, ma per fare il gorgonzola, per fare la pasta di pomodoro, adesso mica ci sarà bisogno dell'industria. Se hai un approccio industriale è perché fai materia di qualità industriale, dove per industriale si intende medio, medio-bassa, per la grande massa del pubblico, ma non di qualità. Come si tengono assieme due cose, l'approccio industriale e l'alta qualità, che obiettivamente, per chi conosce la sua passata, adesso non ho nessun conflitto di interessi, se mi vuole regalare un vasetto, una latta di conserva va benissimo, ma insomma, per chi conosce la sua passata sa che ci collochiamo sui livelli della fascia alta, sia di prezzo che di cliente. Prego. Ma innanzitutto credo che il primo concetto non sia focalizzarsi sulla dimensione, ma sia focalizzarsi sulla specializzazione. Credo che sempre di più la capacità di creare qualità, di creare eccellenza, passi da una grandissima attenzione a delle filiere strette e non solamente corte, quindi potersi concentrare tutta l'attenzione dell'azienda solo verso un unico prodotto, verso un'unica ricerca di miglioramento qualitativo, perché comunque la capacità dell'Italia di sviluppare il proprio export passa, come si diceva, non facendo dei prodotti medio-mediocri, ma noi riusciremo ad avere un successo in Italia e fortunatamente nel mondo nella misura in cui riusciremo a creare delle eccellenze. Le eccellenze si costruiscono in diversi modi. Il concetto di chilometro zero, occorre dire, non è lontano peraltro da noi, da nel voi, senso, certo, che i nostri campi sono a pochi chilometri dallo stabilimento, poi da lì esportiamo fortunatamente in tutto il mondo. Dico fortunatamente, ma ripeto, è il miglioramento costante del prodotto. Cosa vuol dire su un prodotto estremamente semplice come una passata, una polpa di pomodoro? Vuol dire tantissimo, perché è un lavoro che parte dalla filiera, quindi la capacità di riuscire a migliorare costantemente la materia prima, che è il primo elemento, e questo si fa anche con tanta ricerca e sviluppo, investimenti sia dal punto di vista materia prima, quindi una filiera molto con cui si lavora a strettissimo contatto e dove l'elemento prezzo non deve essere il primo driver, perché comunque l'elemento pomodoro per noi, per qualcuno sarà altro, è il primo e fondamentale tassello della parte qualitativa. Il secondo sono elementi di ricerca, sia tecnologica, sia pur in una ricetta semplicissima, di tutti i passaggi. Noi ciclicamente rivediamo tutti i passaggi, per esempio per ridurre i tempi tra la raccolta e il prodotto finito. Oggi come oggi stiamo viaggiando sulle 12 ore nel momento in cui viene raccolto il pomodoro al momento in cui la scatoletta di pomodoro, di polpa, viene finita, quindi pronta per essere venduta. Questo è un processo logistico che può essere affrontato solamente se studiato e razionalizzato veramente in ogni sua parte. Allora, qui già c'è, per uscire dagli schematismi guelfi e ghibellini, tutto ciò che è locale, di qualità, tutto ciò che è industriale invece è di massa in senso negativo. Allora, da questo punto di vista lei ha chiarito una cosa: intanto che il chilometro zero, cioè, esiste in primo luogo nella ricerca della materia prima, quindi se ho ben capito i pomodori che voi utilizzate e la filiera, partendo dalla parte a monte che voi controllate, è una filiera anche vicina. Assolutamente sì, partiamo da veramente a vista dallo stabilimento, poi ci allontaniamo anche da... No, perché a me va bene il concetto di chilometro zero come fonte di materia prima, basta che poi questo chilometro zero lo esportiamo e non ce lo mangiamo solo noi, perché se ogni popolo si mangia il chilometro zero che produce, ripeto, ma sarebbe una tavola tristissima. A parte che non in Italia, all'estero forse, però sarebbe molto triste la nostra bilancia commerciale, visto che il settore agroalimentare è il settore, secondo settore dopo quello metalmeccanico nella contribuzione all'export, quindi sarebbe triste anche dal punto di vista della bilancia commerciale. Però questo vuol dire che voi controllate la filiera dal punto di vista della materia prima, ma quando lei parla di innovazione, perché uno può dire, vabbè, scegliete i migliori pomodori, così andiamo proprio sul concreto, ed è facile, avete preso i migliori pomodori, ma basta questo prima di arrivare poi alla distribuzione, che è un secondo giro di domande. Il resto dell'innovazione, di processo, di prodotto, dove la fate? Ma guardi, ad esempio, proprio nella tracciare la materia prima, noi oggi stiamo lavorando con tecniche che ci permettono di analizzare l'alfa-tomatina piuttosto che la solanina, che sono quegli elementi che decadono con il livello di maturazione del pomodoro, quindi riusciamo a stabilire in modo più scientifico quali sono i momenti migliori di raccolta di ogni singolo campo. Possiamo andare a comprendere meglio come diversi tipi di raccolto su diversi terreni riescono a dare produzioni significativamente diverse. Riusciamo a selezionare un prodotto come i datterini, che hanno un livello di zuccheri naturali all'interno della bacca del pomodoro che è decisamente più elevato, ci danno un sugo che ha un'idea di sapore ma anche di zuccherosità elevata senza aggiungere minimamente zucchero. Questo non è frutto, il lavoro che noi abbiamo fatto sulla filiera inizialmente è durato anni, non è 1, 2, 3 ma sono 5, 7, 8 per ottenere dei risultati, e questo un investimento che si proietta su un ciclo di 8 anni può essere fatto nel momento in cui dietro c'è un minimo di base industriale che permette di non dover richiedere un immediato ritorno sull'investimento. Questo... E qui le dimensioni contano. Voi tra l'altro avete pianificato investimenti quest'anno per quasi 15 milioni di euro? Assolutamente sì, noi abbiamo due sedi produttive, una a Parma e l'altra nel Salernitano, stiamo crescendo in entrambe, stiamo investendo tanto sia dal punto di vista tecnico, devo dire anche moltissimo in persone. L'altro elemento secondo me da non sottovalutare quando si va a fare qualità, quando si vuole una crescita qualitativa, è veramente la qualità delle persone, inteso nel senso non solamente dal punto di vista etico ma dal punto di vista sia di formazione che di elevatissima professionalità. Oggi ma stiamo assumendo, ecco, perché visto che oggi commentiamo anche i dati sul lavoro, state assumendo? Noi stiamo assumendo tanto, abbiamo siglato un accordo con i sindacati per cui l'azienda si impegna ad un minimo di incremento nel triennio del 20% della forza lavoro fissa. In questo momento siamo al primo anno di fatto del triennio e abbiamo già superato la quota, o cioè assumerete il 20% in più? Ne assumeremo parecchi di più, fortunatamente. Noi abbiamo due momenti produttivi. In questo momento sta arrivando l'orda dei giovani, perché noi abbiamo una stagionalità molto rilevante, stiamo parlando di circa 500 persone a Parma ed altre circa 200 nello stabilimento del Salernitano per la campagna di trasformazione, ma noi assumiamo molte persone oggi con elevata qualificazione. Guardi, per fare pomodoro noi abbiamo un terzo delle persone dipendenti fisse che sono laureate o con un livello di studio superiore alla laurea. Restate con noi perché adesso ho le informazioni sul meteo e poi le pubblicità. Vedo un'agenzia che devo leggere che cambia anche un po' la scaletta. Angela Merkel avrebbe dichiarato pochi istanti fa che si rifiuta, non c'entra nulla con il vostro tema, chiaramente, di negoziare un nuovo piano di aiuti alla Grecia prima del referendum della prossima domenica 5 luglio, quindi da quello che capisco io no, eccole qua le agenzie, no, un terzo salvataggio prima del referendum, quindi da qui al 5 luglio non si farà nulla. E di questo parleremo, meno male che i mercati hanno già chiuso. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo. Focus Economia. Nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, stavamo controllando le agenzie che vi ho appena, chiedo un attimo di pazienza ai miei ospiti, che vi ho appena letto, in effetti sono tutte abbastanza univoche su questo, anche le altre che sono arrivate, no terzo salvataggio da parte di Angela Merkel prima del referendum e appunto nessun negoziato né nuovi aiuti prima del referendum, e quindi si alza di nuovo la posta in gioco, ne parleremo nella seconda ora. I mercati oggi li faccio io, tanto c'è pochissimo da dire, più 0,20% in questo momento l'America, ma per quello che riguarda l'Italia la correzione si è avuta proprio nel finale, come sono iniziate ad arrivare le prime anticipazioni. Milano era leggermente positiva, più 0,20, ha chiuso con un meno 0,48%, peggio ha fatto Francoforte meno 1,20 e Parigi meno 1,60%, nessuna notizia di rilievo, un leggerissimo recupero sulla Pop Milano più 2,20, Popolare Emilia Romagna più 1,14, Buzzi Unice più 3,90, al contrario Male e Lusso, Ferragamo meno 3,60, Tod's meno 1,50 e Saipem meno 2,30%. Allora facciamo una cosa, mandiamo in onda il traffico, concludiamo, perché mi interessava l'elemento anche l'intervista, perché il mondo non finisce con la Grecia, ci mancherebbe, poi dalle 18 in poi un'ampia pagina alla luce di questi sviluppi intervenuti proprio in questi secondi. Traffico. Focus Economia. Oh, visto quello che ci aspetta nella seconda ora, sto godendo a parlare di cose positive e di un Made in Italy che riesce a coniugare nel settore alimentare qualità con approccio industriale. Se Mutti fattura infatti 185 milioni di euro, Igor Gongonzola ne fattura 150. Fabio Leonardi, in maniera molto semplice, ma come si fa a fare ricerca e innovazione quando fatturi 150 milioni di euro? Beh, allora cominciamo a dire, io vorrei prima partire un attimo dalla qualità del prodotto, perché delle volte si associa a grandi dimensioni, a industria diciamo a bassa qualità, come aveva detto lei nell'introduzione. Qualità media, mediocre. Qualità media. Beh, allora io dico che per fare un prodotto buono intanto bisogna avere delle materie prime di qualità, e quindi noi abbiamo, come Gorgonzola, siamo obbligati a produrlo in base a un disciplinare, perché è una DOP, quindi possiamo utilizzare solo il latte di parte di Piemonte e parte di Lombardia. Però qua già è una grande azienda, ha le risorse per investire in formazione dei conferenti latte, quindi delle aziende agricole, sostegno nel imporre diciamo e sensibilizzarli a utilizzare un concetto di allevamento col benessere animale e con un'alimentazione sana che viene monitorata dai nostri tecnici, e poi gli diamo tutta un'assistenza in termini di monitoraggio e anche comunque una finestra di speranza, soprattutto in una valorizzazione del latte che noi riusciamo a pagare sempre mediamente sopra la media italiana. Sul latte non dimentichiamoci che quando abbiamo parlato comunque di valorizzazione dei prodotti, noi comunque paghiamo il latte in Italia almeno il 20% in più della media europea, e siamo bravi con le nostre ricettazioni a trasformare in valore aggiunto e a raddoppiare. Nella bilancia dell'Expo dell'agroalimentare i formaggi vengono esportati a una media di 6,50 euro al chilo, tutta la grande famiglia, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino e Gorgonzola, mentre le importazioni dai prodotti tipo quelli che ha citato lei, Germania, importiamo delle commodities a 3,50 euro. Quindi noi riteniamo questa questo ci è proprio, diciamo, il nostro know-how, la nostra passione, il nostro amore, cioè la storia di tradizioni. La mia famiglia, la famiglia Leonardi, da 3 generazioni che fa sempre e solo gorgonzola. Abbiamo un investimento per il prossimo biennio di 35 milioni di euro solo e sempre nel gorgonzola in provincia di Novara, perché crediamo nel territorio, crediamo nelle potenzialità, ma non nel chilometro zero, perché col chilometro zero non si va da nessuna parte. Io ritengo di essere un imprenditore, mi definisco export oriented, perché 30 anni fa, quando ho cominciato a far crescere l'azienda, producevamo 200.000 forme di gorgonzola, oggi ne facciamo 2 milioni. Però abbiamo industrializzato e automatizzato una ricetta vecchia del nonno, e con una grande selezione delle materie prime e una produzione dei fermenti lattici che facciamo all'interno nostro, dove abbiamo sviluppato un settore ad hoc proprio per le ricettazioni adatte ai mercati mondiali e al mercato italiano. Cioè, noi, senza citar nomi, però da Pecca Esselunga, però ci abbiamo una ricettazione che ci permette di andare anche in tutti i supermercati australiani, della Corea del Sud, canadesi, Stati Uniti, con un prodotto adatto ad ogni mercato. No, io so già che chi ascolta storcerà la bocca e il naso, perché dirà: ma come, se da 200.000 a 2 milioni sicuramente la qualità si è abbassata. In realtà so che sono luoghi comuni difficili da sfatare, ma delle volte la qualità si è alzata, perché sta retorica del contadino. Ma diciamola tutta, il contadino, bravissime, ma produceva anche dei salami, dei formaggi, del vino, che appunto si chiamava vino del contadino, non in maniera, diciamo, come complimento. Per cui, questa retorica in cui una volta negli anni 60, andiamo a controllare i livelli igienici, adesso non voglio attirarmi le ire, però insomma, i livelli igienici di allora erano incomparabilmente più bassi di quelli che applica l'industria alimentare, anche quella di qualità, e soprattutto quella di qualità. Su questo, perché so che l'automatismo è, vabbè, da 200.000 a 2 milioni di forme, chissà adesso come le fai. Sì, però l'automatismo, dov'è che abbiamo inserito l'automatismo? Dove l'uomo non andava a dare qualcosa al prodotto, ma era solo proprio una questione meccanica di lavoro fisico e di stress fisico anche dell'uomo, delle maestranze. Quindi noi abbiamo automatizzato i processi dove l'uomo non poteva dar niente alla qualità del prodotto, ma dove l'uomo è fondamentale, cioè nella selezione in laboratorio dei batteri lattici, nell'analisi del latte, nella cura del dosaggio degli ingredienti e tutto, certo che l'uomo è rimasto. Anzi, abbiamo valorizzato anche inserendo un team di personale qualificato, facendoli fare dei costi, credendo nelle risorse umane, abbiamo aumentato il livello generale. Io però vorrei citare questo esempio. Mi ricordo che dopo l'università, quindi parliamo di 28 anni fa, io ho 52 anni, cominciai a girare l'Europa e proprio avvertivo quasi una sorta di, tra virgolette, diffidenza dei grandi operatori europei. Poi mi sono spostato negli Stati Uniti e in Canada, però amavano tutti il gorgonzola, ma nessuno si fidavano delle strutture artigianali. Uno, per i parametri igienico-sanitari poco affidabili. Due, dalle dimensioni troppo di nicchia, quindi che non potevano garantire i rifornimenti a catene di supermercati di importanza europea. E quindi mi sono detto, sono tornato, dopo 2 o 3 anni di visita, ho riunito il consiglio familiare, papà, mamma, mio fratello e mia sorella, abbiamo detto: ragazzi, qua o cambiamo mestiere tra 5-6 anni, oppure facciamo un progetto serio per recitare una parte da protagonisti nel mercato del gorgonzola. Che quota avete voi del mercato mondiale del gorgonzola? 45%, però, se mi permette, a livello mondiale? Sì, sulla produzione. Però non è tanto di per sé la quota, perché uno può crearsi... uno su due è vostro, sì, a livello mondiale. Sì. Però l'importante, e questa è una cosa che mi fa piacere proprio raccontare, è che non è tanto solo il salire nella quota, è far crescere il comparto. Sì, perché noi siamo passati, il comparto gorgonzola 10 anni fa produceva, totale tutti i produttori, 3 milioni e 200 mila forme. Nel 2014 abbiamo toccato il record storico di 4 milioni e 450. Cioè, noi abbiamo spinto molto sulla diffusione all'estero, perché c'è grande voglia di italianità, di prodotti, però bisogna anche andarci. L'abbiamo visto anche nel settore vitivinicolo, superata la crisi del metanolo, i grandi marchi, la grande qualità anche di fascia, inutile girarci attorno, medio alta come prezzo, aprono la strada. Dopodiché dietro, una volta che tu hai affermato, nel caso del vino, ma anche nel caso del latero caseario, hai affermato la qualità, dietro si possono infilare, non dico produttori di qualità più bassa, ma magari di volumi più bassi, o anche di qualità media, di prezzi più abbordabili. Ma comunque chi ha creato l'imprinting positivo di solito è il grande produttore che riesce a avere la forza per andare in questi mercati con una certa qualità, perché sennò scivoli verso altri livelli. Chiudiamo su questo, Mutti e poi Leonardi. Voi esportate Mutti in Svezia, Finlandia, Norvegia, Giappone, Australia e Stati Uniti. Quanto è importante avere la massa critica finanziaria per arrivare nella grande distribuzione? Guarda che la grande distribuzione non è solo il prodotto, diciamo, di base, perché chiunque frequenti dei supermercati non hard discount sa che c'è tutta una fascia anche di prezzo medio e medio alto nella grande distribuzione. Ma allora, senz'altro è importante avere un minimo di dimensione già solamente per trasferirsi all'estero, spostarsi, andare a trovare, frequentare, poter dare dei servizi alla grande distribuzione in giro per il mondo. Un minimo di massa è assolutamente indispensabile. È impensabile, a mio avviso, viceversa, l'attendere solamente stando qua che qualcuno ti venga a scoprire, rischia di essere un percorso che non porta a nulla. Se posso aggiungere proprio uno dei concetti dove una certa massa critica può poi generare valore per tutta la filiera, è un progetto che abbiamo iniziato proprio quest'anno, sempre sulla materia prima, con l'Università Cattolica di Piacenza di agronomia, nella quale abbiamo creato pomodoro.net, che è un portale dove tutti i nostri agricoltori possono connettersi e avere sostanzialmente informazioni a 24 ore su 24 su tutti quelli che sono gli sviluppi meteorologici e quindi l'impatto sulla materia prima e che cosa eventualmente occorre fare per poter ridurre costantemente l'utilizzo di qualunque sostanza chimica, ma nel contempo migliorare costantemente il livello qualitativo. Questo, se noi dimentichiamo che c'è un'impronta tecnologica che è alla base dello sviluppo qualitativo, fatto da due elementi, sia sicurezza alimentare ma anche gustativo, quindi il piacere del mangiare, noi stiamo facendo veramente un grandissimo errore. Domanda analoga anche per lei, visto che appunto siete presenti dal Giappone al Canada, all'Australia, e c'è una campagna anche importante sul territorio del consorzio, se ho ben visto. Sì, io sì. Quanto importanti sono le dimensioni per arrivare in questi mercati? Beh, sono importanti perché comunque bisogna avere strutture commerciali, bisogna avere degli export manager, bisogna conoscere i paesi, bisogna fare ricerche di mercato e poi per diventare leader su questi mercati e creare proprio un prodotto di mass market che va su tutti gli scaffali, come abbiamo altri blu europei che ci fanno concorrenza, tipo, non so, Roquefort piuttosto che lo Stilton inglese. È chiaro che bisogna avere struttura e volumi, perché comunque quando approcciamo a delle grandi catene distributive, prima di tutto dobbiamo essere in grado di evadere gli ordini e fare investimenti per dare un packaging di prodotto, un vestito quindi al prodotto in termini di servizio per il consumatore adatto a ogni mercato. Quindi vuol dire tornare a casa dopo aver fatto contatto, poter investire in linee di confezionamento. Noi oggi abbiamo 25 linee, 25. 4 anni fa ne avevamo 8. Quante linee avete voi, la Mutti? Noi abbiamo 9 linee, un prodotto diverso, ma se posso aggiungere una cosa, perché in Italia abbiamo questo concetto mentre in Francia con lo champagne non esiste questo? E è difficile pensare... Sullo champagne avrei qualcosa da dire, perché insomma, se uno conosce parlando di numeri la terra enorme dello champagne e il numero di milioni di bottiglie prodotte, io vorrei capire quanta resa hanno quelle uve, e qui mi fermo e sono buono, diciamo, perché potrei aggiungere da dove vengono le uve dello champagne, però, perché insomma lo champagne dovrebbe essere grande come mezza Francia per la produzione che ha, eppure nessuno in Francia si permette di dire beh, attenzione, vediamo dove vengono le uve dello champagne, se tutto il bianco che arriva è tutto dello champagne o arriva per caso, per sbaglio, perché uno sbaglia svincolo autostradale da altre parti del territorio. Vabbè, comunque no, che chiudere con questa prima ora con lo champagne, diciamo, ci mette un po' d'allegria, perché poi ci aspetta una seconda mezz'ora con il blocco delle trattative. Grazie intanto e in bocca al lupo a voi e ai vostri dipendenti, anche al piano di assunzioni. Grazie a Francesco Mutti, amministratore delegato della Mutti, grazie a Igor. Mi sono legato di Igor Gongondora, Fabio Leonardi, complimenti, bellissime realtà che abbiamo preso come simbolo per tutta l'industria alimentare. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, due le notizie, oltre a quelle di cui ci siamo fino adesso occupati, che connotano questa giornata. Una riguarda la Grecia e quando mai non lo è stata in queste settimane, con gli ultimi sviluppi e le dichiarazioni di Angela Merkel, che a mio avviso, stiamo lavorando praticamente in diretta anche con le notizie, ma a mio avviso cambiano notevolmente anche le possibilità di efficacia e il senso del vertice del gruppo delle 19. Se la Germania dice che tanto prima del 5 del referendum greco del prossimo 5 luglio, domenica, non prenderà in considerazione nuovi aiuti, un nuovo piano di aiuti alla Grecia, mi sembra che svuoti di fatto qualunque possibile soluzione in extremis che potesse arrivare dal loro gruppo straordinario di questa sera alle 19. Prima di tutto però i dati sull'occupazione e disoccupazione. Ripeto, qualcuno mi ha detto lei è oggi molto diplomatico. No, non sono diplomatico, ma il dato non è né buono né cattivo, nel senso che chi si aspettava una conferma ulteriore del dato di aprile in cui c'era stato un calo della disoccupazione e un aumento dell'occupazione è rimasto deluso. Il dato è fermo, disoccupazione al 12,4%. Chi temeva che vi fosse un peggioramento invece anche in questo caso è deluso, per cui non si è mosso nulla. Il vero problema è capire se si tratta di una battuta d'arresto oppure se si è già esaurito l'effetto Jobs Act dal 7 marzo. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'ex presidente dell'Istat, tra le altre cose, non solo questo ha fatto anche ministro del lavoro per il governo Letta, Enrico Giovannini. Buonasera professore. Buonasera. Allora, i dati, 12,4% di disoccupazione, sono 59.000 disoccupati in meno nell'anno, però attenzione nell'anno, in lieve calo la disoccupazione a maggio dei giovani, però anche qui l'Istat fa notare che la disoccupazione dei giovani cala perché sostanzialmente non cercano più lavoro, giovani e donne, questo rappresenta il calo. Sono tornati infatti a crescere dopo 4 mesi gli inattivi, quelli che non hanno un lavoro e non lo cercano e quindi non finiscono nelle statistiche dei disoccupati. Tra l'altro su questo abbiamo visto anche l'Istat appunto essere molto chiara: le politiche del lavoro, in particolare il Jobs Act, sembrano aver avuto effetto su aprile ma non su maggio. Lei propende più per la battuta d'arresto o per la fine dell'effetto, che a quel punto sarebbe stato un effetto un po' così limitato, ridotto, del Jobs Act tra marzo e aprile? Ma io vorrei guardare al di là del dato mensile una tendenza, perché questi dati, lo sappiamo, sono abbastanza volatili. Allora, in termini di tasso di disoccupazione, come lei ricordava, siamo fermi rispetto allo stesso mese, ma in realtà è lo stesso livello di giugno 2014, cioè un anno fa. Il numero di occupati, che sono oltre 22.200.000, è esattamente uguale a quello di giugno dell'anno scorso. Il numero di disoccupati è esattamente uguale a quello di giugno dell'anno scorso. Di fatto, quindi, al di là delle oscillazioni mensili, il mercato del lavoro italiano ha conosciuto un recupero nel corso dell'estate dell'anno scorso, una battuta d'arresto, e poi oscilla sostanzialmente sugli stessi livelli. Diverso il discorso per l'occupazione giovanile. Se andiamo a guardare i valori assoluti, il numero di giovani occupati, sono 893.000 dei 15-24 anni, è al minimo storico. Anche i disoccupati sono al minimo storico, perché gli inattivi, come lei ricordava, invece sono al massimo storico, in altri termini. Per la popolazione nel suo complesso, al di là di piccole fluttuazioni da un mese all'altro, non è cambiato nulla rispetto a giugno dell'anno scorso. Per i giovani siamo invece a un'occupazione che continua a diminuire, diminuiscono anche i disoccupati perché molti, come lei diceva, sono scoraggiati e non cercano. Allora, se ho ben capito, lei dice, professor Giovannini, guardiamo i dati su un periodo un po' più ampio. Siamo tornati al giugno del 2014. Ora, anche qui non voglio essere diplomatico, però uno può vederla o come un dato con un bicchiere mezzo pieno, va bene, abbiamo recuperato tutti i cali di attivi tutti gli aumenti. No, in realtà era aumentata l'occupazione nella seconda metà del 2014, poi diminuita verso diminuita di nuovo, anno, siamo ritornati indietro di un anno, cioè un anno fa. Però la domanda era un po' più, non dico politica, ma articolata, cioè noi ci aspettavamo tutti, adesso è ancora presto per dirlo, che dal Jobs Act, un po' perché le imprese avevano fermato in alcuni casi le assunzioni in attesa della decontribuzione di gennaio, quella che vale fino a 8.000 euro per 3 anni per i neoassunti, non c'entra nulla col Jobs Act, un po' per l'avvio del Jobs Act il 7 di marzo, in cui uno può sì fare un contratto a tutele crescenti, per di più sfruttare fino a dicembre anche la decontribuzione, c'era stato detto, beh, vedrete che vi sarà questa, l'elastico si è teso e poi si mollerà. Ecco, la domanda è, in questo momento però non arriva nessun segnale tale da dire, oh, si è imboccata una strada per cui i dati dimostrano come tutti fossero in attesa della nuova legge, della decontribuzione, e poi si sono messi ad assumere. So anch'io che non si assume per i contributi o per il contratto a tutele crescenti, ma mi interessava l'analisi su questo. In realtà in un'economia che non cresce, il massimo che può accadere grazie agli sgravi contributivi molto generosi che sono stati fatti senza imporre, come feci io da ministro, che quell'occupazione fosse aggiuntiva, quello a cui stiamo assistendo è una sostituzione di contratti a tempo determinato con cosiddetti contratti a tutele crescenti, che, lo ricordiamo, nella formulazione che è stata approvata dal Parlamento è soltanto a indennità crescenti, perché non scatta più articolo 18 come qualcuno aveva proposto all'inizio. Ma se andiamo a guardare gli altri dati che l'Istat ha pubblicato 15 giorni fa sulle ore lavorate, vediamo che le imprese complessivamente hanno una quantità di ore lavorate, che poi è l'input di lavoro nella produzione, praticamente stabile da un anno e mezzo. Che cosa hanno fatto le imprese? Hanno, da un lato, ridotto la cassa integrazione, quindi stanno facendo lavorare di più le persone che sono occupate, ma dall'altro stanno, in molti casi, continuando ad espellere occupazione. Perché? Perché ci sono dei settori che sono ancora in grave crisi, le costruzioni e non solo. Quindi l'effetto netto è sostanzialmente nullo. Anche se all'interno stanno accadendo cose, ad esempio c'è un forte aumento degli occupati in somministrazione, ci sono cioè le agenzie interinali e così via che stanno sfruttando il contratto con la decontribuzione per assumere persone che poi naturalmente impiegano se necessario nelle imprese. Ma se le imprese non aumentano i fatturati, non aumentano la produzione, è chiaro che l'effetto complessivo di tutti questi cambiamenti interni è molto basso, come i dati Istat ci mostrano. Allora, no, su questo siamo tutti d'accordo, l'abbiamo detto molte volte, non solo l'occupazione non si crea per legge, ma se non riparte il ciclo economico, nello specifico i consumi interni di questo paese, difficilmente vedremo un significativo aumento dei fatturati aziendali e quindi nel medio termine un aumento dell'occupazione e un calo della disoccupazione. Non riusciamo a sostituire l'assenza di domanda interna solo con l'export, ma non ce la faremo mai, neanche se esportassimo il 30% in più. Detto questo, però, professor Giovannini, visto che lei ha fatto sia il presidente dell'Istat per molti anni che il ministro del lavoro per un tempo più breve, visto che era il governo Letta, mi è sembrato di cogliere un po' una critica quando ha detto il governo ha dato la decontribuzione senza però verificare che fossero nuovi contratti. E lì è questo l'errore? Ora è evidente che ridurre il costo del lavoro, visto che in Italia abbiamo in alcuni settori un costo del lavoro molto alto, è chiaro che va bene, questo aiuta le imprese, ma è anche molto evidente dal confronto anche dell'effetto appunto del mio incentivo per i giovani, che portò circa 40.000 giovani assunti in più in termini di occupazione a quell'epoca a tempo indeterminato, e invece l'effetto che vediamo nei dati Istat, che le imprese stanno sfruttando appunto questa decontribuzione senza aumentare l'occupazione complessiva. E allora dovremmo domandarci, visto che abbiamo così poche risorse e molte sono state usate per questa operazione, se questo era il miglior modo di utilizzarle. Ripeto, possiamo discutere all'infinito su che cosa ci si sarebbe potuto fare con questi miliardi. È chiaro che la scelta del governo è stata quella di incentivare il nuovo contratto cosiddetto a tutele crescenti, e questo sta avvenendo. Però forse c'erano aspettative eccessive sull'impatto netto di questa operazione, in presenza di una congiuntura economica ancora caratterizzata. Io non voglio dare sempre la colpa al governo, queste aspettative eccessive le ha generate anche il suo successore, ministro Poletti, che abbiamo avuto ospite, e le dichiarazioni enfatiche con i primi dati del Ministero del Lavoro. È intervenuto Luca Ricolfi su Sole 24 Ore a chiedere la fine dell'embargo dei dati, perché non riuscivamo più nemmeno noi a capire dati del Ministero del Lavoro, dati dell'Istat, cioè non si capiva più niente nel mese di marzo-aprile. per poi scoprire, che è quello che ci ricorda anche lei, che sicuramente c'è stato un miglioramento nella qualità dei contratti, quindi decine di migliaia di contratti trasformati da tempo determinato, da partita IVA, da contratto a progetto a contratto a tempo indeterminato. C'è stato anche un leggero aumento dei contratti a tempo indeterminato, ma non tale da dire che è cambiato verso, per usare le parole del Premier Matteo Renzi. Grazie all'ex ministro ed ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini, traffico. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? No, attenzione, vedo molti messaggi. No, il tema della riforma del mercato del lavoro c'era e lo difendiamo, perché oggettivamente c'è proprio un problema, c'era un problema di regole anche del mercato del lavoro. E abbiamo sempre detto questo, per non attaccare, cioè il governo si attacca quando racconta balle, quando enfatizza i dati, quando porta acqua al suo mulino, non si attacca a prescindere il governo. Questo per dire che abbiamo sempre detto, attenzione, non basterà una legge a tutele crescenti che cerca di levare dalla precarietà, perché il mondo di prima non era fatto solo di contratti a tempo indeterminato come racconta la vulgata del sindacato, era fatto di soprattutto di contratti precari con pochissime tutele, partite IVA mascherate dal lavoro dipendente mascherato da partite IVA e via così. C'è la giungla di cui il sindacato non si è mai accorto. Ora, il contratto tutele crescenti mette un po' di ordine in quello e dà delle tutele crescenti, rendendo anche più oneroso il licenziamento. Mentre la partita IVA Cocopro finiva il contratto progetto, ciao, arrivederci, la partita IVA finiva il rapporto, ciao, arrivederci. In questo modo, con il contratto, con il Jobs Act, l'azienda paga 2 mesi fino a un minimo di 6 mesi buona uscita nel caso interrompa un contratto di lavoro, c'è la maternità, ci sono le malattie, e tutto questo a nostro avviso è positivo perché si estende a tutti e non solo ai pochi felici e fortunati che hanno il contratto a tempo indeterminato. Tra chi ha meno di 30 anni siamo veramente alle mosche bianche. Detto questo, non è colpa del governo se la domanda interna non aumenta, o meglio, non è attraverso una legge del mercato, una legge sul lavoro che tu fai aumentare l'occupazione e diminuire la disoccupazione. L'enfasi eccessiva, però, quella sì, l'ha creata il governo. Il ministro Poletti, a nostro avviso, doveva stare un po' più zitto nel mese di marzo e aprile, iniziare a dire: ah, ecco i dati. Tant'è che oggi Poletti torna a dire: i dati non sono stabilizzati, non sono ancora stabilizzati, restano comunque validi segnali positivi registrati nei primi mesi dell'anno. Attenzione, che stiamo tornando ai dati dei primi mesi. Poletti, più cautela e più calma, se no non siamo gufi. Non è che chi non la pensa in un certo modo invita la cautela è un gufo. No, il mondo non si divide tra gufi e colombe. Su. Allora, la Grecia, dove la prendiamo? Tanto Angela Merkel ha calato l'asso sull'Eurogruppo che partirà alle 19, ha detto, come abbiamo raccontato in diretta, tanto noi come Germania non firmeremo nessun nuovo piano di aiuti alla Grecia e ci rifiutiamo di negoziare un nuovo piano di aiuti, quindi no, un terzo piano di salvataggio prima del referendum di domenica 5 luglio. Io traduco, caro Tsipras, hai voluto annunciare il referendum venerdì sera a sorpresa? Mo lo fai, vediamo come va, e a quel punto vediamo se votano sì una cosa, se votano no non ci sarà nessun piano di aiuti. Vittorio Daroldi in collegamento con noi da Atene, buonasera. Buonasera a voi. Sei di fronte a un bancomat? Questa storia dei banchi. Sì, ho provato. No, ma io dico adesso problema... un po' di autocritica alla stampa italiana. Ma tutti gli articoli da 3 giorni solo su sti bancomat, ma ho capito, ma non è quello il problema. E giustamente alcuni prendevano anche in giro il fatto che vai di fronte ai bancomat, c'era un caso bellissimo, la fila, perché no? Perché si è inceppata la testa di quello davanti. Adesso non creiamo il panico per forza con sti bancomat, forse il problema della Grecia, i bancomat abbiamo già risolto. non sei di fronte a un bancomat, non devi scrivere un pezzo sui bancomat, diciamo questo, che ne abbiamo letti a decine in questi giorni. Vittorio? No, no, oggi bisogna cercare di capire che cosa succede adesso al governo Syriza, perché questo no della Merkel rimette tutto in discussione. Effettivamente sembra più un tentativo di fare in modo che il rifiuto di uno dia appunto, diciamo, la responsabilità finale alla parte avversa. Quindi tutto questo viene usato in una campagna mediatica per il risultato del referendum che si terrà domenica. Sì, detto questo, non mi si può accusare di tante cose tranne che di difendere Angela Merkel. Però devo dire che stavolta la Merkel ha ragione, possiamo dirlo, perché il ragionamento che fa è molto semplice. Adesso, io la leggo così perlomeno, caro Tsipras, hai annunciato venerdì sera a sorpresa un referendum? Adesso lo fai, vediamo come va e dopo discutiamo un piano d'aiuti. Perché, cioè, non è proprio per il rispetto che si chiede all'elettorato greco, alla Grecia come democrazia, questo rispetto fa sì che sia inutile tentare un accordo nel finale per evitare il referendum, vorrebbe dire anche un segnale di debolezza. Tsipras è convinto che la strada migliore sia il referendum in queste condizioni e farà sto referendum. Quindi una volta tanto devo dire che Angela Merkel non è quella che rompe le uova nel paniere e anche qualcos'altro delle volte, ma semplicemente usa una linea coerente. Ci rifiutiamo di prendere in considerazione l'ipotesi di un terzo salvataggio, sapendo che domenica 5 luglio la Grecia ha un referendum che di fatto deve dire se il progetto europeo, le proposte europee possono essere accettate oppure la Grecia vuole uscire dall'euro. Io la leggo così, Vittorio. Sì, esattamente, perché questa mattina è arrivata la notizia che effettivamente era Juncker, il presidente della Commissione europea, che stava cercando di salvare la sua faccia. Vai. A rilanciare questo piano, a cui questo piano contropiano greco doveva essere appunto la risposta, ma è una risposta che avrebbe dovuto essere fatta a febbraio, quando il governo Syriza cominciò le trattative, farlo oggi, cioè il tentativo di avere un piano di 2 anni con solo il Fondo Monetario Internazionale, quindi con l'esclusione del Fondo Monetario Internazionale, scusate, col Fondo Salva Stati Europeo, senza il Fondo Monetario Internazionale, che lo ricordo questa sera a mezzanotte scade il termine ultimo per pagare la rata, e quindi da dopo mezzanotte il meccanismo di un default ed è il primo di un paese dell'Eurozona. Quindi questo è il tentativo di fare. Sì, anche se diciamo tutto, perché poi domani dovremo spiegare bene tecnicamente, non è il fallimento su tutto il fronte, perché tecnicamente il problema è che non hai pagato la rata in scadenza, sono tutti tecnicismi. Poi hai ragione tu nel dire, vabbè, tanto alla fine il punto è che non paga la rata Atene, fine. Però tecnicamente non è una cosa abbastanza, cioè nell'Eurozona non è mai successo, quindi ci sono solo una manciata di paesi nel mondo, tra cui la Somalia, la Liberia, insomma non ce ne sono molti che non hanno pagato, l'Argentina da ultimo naturalmente, ma qui è il caso di un paese che fino ad oggi è nell'Eurozona, certo. E non ha pagato perché non ha trovato un accordo con i creditori che scade anche questo accordo dei creditori domani. Questa sera alle 18, diciamo così, a Washington, e quindi il Fondo Monetario scade, certo, oggi a mezzanotte, e invece a Bruxelles, quindi questa sera scade anche il piano che si era stato deciso a febbraio, e quindi teneva ancora la Grecia nei negoziati. Da domani la BCE potrebbe non avere più quindi nessuna rete di salvataggio per qualsiasi tentativo di immissione, anche di emergenza di liquidità, perché non c'è nessun piano, nessun paracadute politico, certo, dietro. Anche perché dietro la BCE ha bisogno di un paracadute politico, cioè di un accordo politico per prestare i soldi. Questo è previsto dai trattati, non è che decide Mario Draghi come vuole lui, che se volete anche un bene. Tecnicamente la Grecia andrà solo in arretrato sul fondo monetario, però in contemporanea non vi sarà il piano, l'ombrello protettivo di Bruxelles e di Francoforte. Quindi domani Vittorio D'Araldo, immagino già da domani mattina nei nostri GR, quindi ti sto blindando per le 7 di mattina ora italiana, ci racconterai come si sveglia un paese senza più rete di protezione, senza più, diciamo, l'Europa a garantire per lui, per fare capire a tutti. Grazie intanto a Vittorio D'Aroldi in collegamento con noi da Atene. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani sempre in diretta dal Cibus, dal padiglione Cibus qui all'Expo, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.